buonasera a tutti, buonasera. Buonasera anche a lei e anche buona Pasqua. Oi Marcolini, allora buongiorno, buona Pasqua Marcolini. Sta a posto, eh sì. Stiamo preparando, cioè stiamo finendo gli ultimi preparativi. Noi praticamente anziché andare in campagna ci riuniamo sulla terrazza di mia zia che è qua a fianco, proprio nel palazzo più giù. Sulla terrazza c'è il sole, c'è l'ombra se la vogliamo, mangiamo lì, possiamo anche arrostire perché siamo sul tetto praticamente, che non c'è tetto a tegola ma c'è terrazza, capito? Un po' come ce l'ha Luca Flipper, dai. E così non siamo né troppo vicini né troppo lontani, siamo anche un po' all'aperto e facciamo tutte cose, dai. Io lo stesso, mi sto preparando, io sono da mia zia. E scendo lì a Canica e lì lo stesso c'è la campagna, fare un po' di braccia, un po' di carne, via andare con amici e nipoti. Figa, lei a cappa. Sì, anche noi in realtà volevamo andare in campagna prima a Bancali, no, però sai cos'è, mamma già si può muovere poco, mio zio lo stesso con la gamba messo male, insomma alla fine anziché fargli fare troppa tribolazione lo facciamo proprio qui a quant'è? 50 metri è il palazzo, capito? Così se ho dimenticato qualcosa da portare non faccio altro fare le scaline e prenderla KK. E quindi Emanuele, buona Pasqua, per quanto io non la festeggi è la Pasqua, cioè le feste religiose per me non è che significano niente, più che altro è mangiozia, forse qualche regalo in pecunia, cesce, è tutto lì. Anche io Marco, anche io se così, ma guarda, arrivano le feste, sia Natale, Capodanno, Pasqua e via dicendo, guarda io è un giorno come tutti gli altri per me, io la penso così. Sì, più o meno, io non è che sia praticante, non è che vada in chiesa, eccetera, no. Non sono molto credente, capito? KK. Vediamo se c'è qualcun altro nel frattempo mi sono arrivati vari auguri su WhatsApp, devo ancora contraccambiare, K. Chi c'è sul 10? Chi altro c'è? Mi sa che sono tutti che stanno scaldando le griglie, capito, la carbonella. Mi sa proprio di sì, Marco, mi sa che è proprio di sì. D'altronde se non vai a coso, a Pasqua in campagna, però adesso vediamo, domani è Pasquetta, può darsi che domani in campagna una cappatina ce la facciamo, ma giusto una normale spaghettata aglio e olio, un po' di carne, ma niente di impegnativo, noi non siamo nemmeno maniazzoni, io ce lo sono anche piccolo, io mangio poco e mi salto subito. Va bene Emanuele, di nuovo rinnovo gli auguri e ci sentiamo domani, quando capita, là, io non sono costante alla radio, capito? Ciao Emanuele, ciao. Ciao Marco, grazie degli auguri, anche a te, famiglia, ce la riascoltiamo, dai, buona giornata e buon tutto. Ciao Marco. Fiorellino! Fiorellino! Luca Plifero! Dica! Beh, pronto si arrostire. Ho visto ieri tutto l'ambaradan, tutto pronto, affilando i coltelli pure, No, domani. No, oggi faccio metà agnello e passo al forno, però l'agnello lo faccio in umido oggi. L'altra metà domani nel giro arrosto. KK, mi c'era Emanuele poco fa, gli ho fatto gli auguri, per quanto vabbè io non sia nemmeno praticante, però per chi vale valgono, auguri di buona Pasqua. Auguri, no vabbè Emanuele bisogna fare gli auguri perché lui nell'intimità si fa chiamare Pasqualina. Così è. Per quello li pretende anche gli auguri. Bene, sto uscendo Marco, sempre, sì, K, troppo forte, troppo basso, aumento, diminuisco. No, va bene così. Noi siamo qua vicino, sulla terrazza di mia zia, perché siamo a 50 metri reali da qua, capito? In campagna, sai cos'è, mamma cammina male, il fratello stesso si è messo male di gambe, allora forse a Pasquetta un giretto in campagna al Bancali ce lo facciamo, ma oggi rimaniamo qua in zona. Ma dove sei adesso? Casa tua? Sì, sì, sto preparando la roba da portare e tutto, dai. Ehi, KK, no, arrivi sempre bene. Anche questa radio sta funzionando bene. Tutto a posto, Rogero. Attento, Ginko, Pasqualina. È già uscito, Ginko, è già uscito. Devo andare a un pranzo. Tutte no, che senti? Ogni segnale, questo è Luca Liello. Esagerato, ogni segnale, auguri, buona Pasqua. Ciao Lu, buona Pasqua anche a te. Prima c'era Ginko, li ho fatti prima, adesso c'è Luca Flipper, che lo stesso sta preparando il porcetto, quello che è, agnello. Chi è che si dice che sta giocando la canna? Foglia zero, quanto Renato so Gucci. Ma io sono a dito dietro perché non ho dormito quasi niente, ho dormito sì e no un'ora e male pure, quindi sono sotto lo sciabidato. Vabbè, io giorni fa sono uscito a dormire per quanto riguarda mal di gola, domani è passato. Eia. Luca Flipper, riprendi. Riprendi tu Marco, dai, mi assento, ciao. Io sto lo stesso preparando, vabbè, due cavolate devo portare. Tappa. E quindi Lu, ma tu a casa, la fai a casa la Pasqua? Sì, sì. E noi quasi. Allora, dobbiamo andare da mia zia qui che è a 50 metri sulla terrazza. Sulla terrazza praticamente c'è sia la parte coperta, la veranda, sia la terrazza, quindi se vuoi sole, se al sole, se vuoi un po' di ombra, mangiamo all'ombra. Perché andare in campagna, sai, con mamma che non cammina bene, anzi non cammina quasi, il fratello lo stesso è così. E allora possiamo rostire lo stesso perché siamo sul terrazzo, ci siamo sull'ultimo piano del tetto, non del terrazzo, quindi è quasi come andare in campagna, dai. Poi casomai a Pasquetta, forse domani una cappatina, forse. Mi ho passato la macchina, ma me ne sto a casa anche domani, una giugata di va nuda, sai se vuol dire nulla, a parte il fatto che poi martedì devo fare le analisi, non voglio fare cazzate, nel senso non voglio esagerare, capito? Eia, non vuoi accedere né col cibo né con la magari Beozia, non sia che alteri un pochino i parametri, dai, delle analisi. Va bene, qua c'è un silenzio di tomba, devono essere andati tutti già in campagna, in pinetta, cazzo, a se insegnare la piletta mi arrostendo. Ciu. Ah, ma ha fatto un cazzo, non interessa. Vabbè, oggi è un giorno come un altro. Quindi la verità, mi sono venuto in campagna, portare il cane, fare una bella rustita, mangiare un po' di carne, un po' di verdure, così, e stare al sole, se il sole è troppo per me, quindi ti abbronzi un po', mi sarebbe piaciuto in campagna oggi. Colù, io non te l'ho chiesto perché non è che, ma tu non ci sei più con quella ragazza? No. Ma non, come, non andavate d'accordo? Avevo capito qualcosa del genere, avevi detto tipo per bisticciare meglio niente. E vabbè, io ho fatto già pratica, anch'io, piuttosto che stare a bisticciare un giorno sì e l'altro pure, e allora tagliavamo i ponti, dai, da tutte le parti. È un casino, Marco, lasciamo perdere. Abbiamo fatto questa macchina che mi serve per lavoro, che dopo Pasqua dovrei entrare a lavoro, come si dice, però questa macchina ha un po' di difettucci, quando prende i fossi fa dei rumori, mi sa che è pastiglie, poi un 1.400, cazzo, mi spendono l'assicurazione. Sì, naturalmente, se non devi fare viaggi lunghi, cioè se devi usarla nell'ambito della città o dintorni, così va bene. Certo, se devi andarci, che ne so, Nuoro, Cagliari, Oristano, non lo so, se lavori vicino va anche bene, anche se fa rumoretti, magari sono i cuscinetti un po' consumati e tende a fare rumorini, capito? Sì, ma la macchina uscita non la buio, adesso vedo un po'. Si trovano le macchinette, messe bene, ho voglia. Questo già è di nuovo, è bellino, la Polo, Volkswagen Polo, però ha tanti lavori da fare, Marco. Ma ho anche visto per quanto riguarda la liquido, è nero, non c'è scuro, non c'è il liquido, come c'erano tutte le macchine, bello pulito, non lo so. Ah, vuol dire liquido radiatore, cioè scuro, come se ci fossero tracce d'olio. E beh, quella vuol dire che c'è una trafilatura di olio che passa la guarnizione e finisce nell'acqua del radiatore, dai, nel liquido di raffreddamento. L'avevo fatto anche a noi con la vecchia 1, la prima che ho avuto io, ma era già vetusta la macchina, capito? Se non devi viaggiare, ti ho detto, decine e decine o centinaia di chilometri, già andrà bene, provvisoriamente. Se non una macchinetta più piccola, con un motore tipo 1000, sai, quelle, una micra, cosa ne so, già ce n'è già di troppo di macchine. L'importante è che abbiano un minimo di affidabilità, cioè che non siano proprio messe male ai minimi termini come motore, no? Magari chiedere qualcuno che lo usava fino al giorno prima, capito? Non roba o che venditori di macchine, non le concessionarie ufficiali, quelli che hanno stanzoni, delle camere con delle macchine buttate dentro, o che a quelli, perché un amico ne ha passate di cotte e di crude, anche peggio di cotte e di crude. Sì, vabbè, comunque. Sono diventato di notte a luna, boh, a luna era. Una riugata manco di scivo, casino. Perché ho mamma, lo stesso magari non sta bene, vuole essere aiutata, va. Lasciamo perdere, cazzo. Siamo proprio una merda questa volta. Però se non mi do una mossa adesso, che ho bisogno di lavorare, perché non posso stare dietro mia madre, nel senso, non è che l'abbandono, però io ho bisogno, perché un domani quando non c'è lei, poi che cazzo mi prende al lavoro, ci avrò 60 anni. Cosa devo dire io, Luca? Ma meglio non pensarci, però, vabbè, non ci voglio pensare. Vabbè, dai, sorvoliamo. Comunque, vediamo un po', da. Nuove avventure. Anche i radiatori mi ci sono in V. Qualcuno già c'è in radio anche lì. E ancora per mangiare presto, sono le? Sì, ancora le 11. Io non sento nessuno. Ma 145-525. Allora, la frequenza non l'ho guardata, credevo fosse V, forse da qualche ponte, adesso non parlano più, per esempio, Ho sentito una chiamata e poi il nulla. Sì, le fanno la chiamata. Oh, poi ieri sera ero sparito, cioè sono andato a fare il caffè, poi sono distratto con altre cose, non sono più rientrato, dai, non fa. Eiaia. Casino, Marco, siamo proprio in mezzo a, non so che parola dire. Casino, sto pensando, poi c'è, vabbè, anche questo cane, non posso io, adesso questo cane ce l'ho già, fa 3 anni, non posso, lo tengo, vedo un po', magari, non mi posso permettere un dog sitter, ma che cazzo faccio, travaglio un dog sitter, devo trovare una sistemazione, adesso vediamo. E quello lì sembra così, ma è un impegno, però non lo do, mica lo porto al canile, ma anche no, perché se lo porto lì muore. Vabbè, il cagnolino è solo, ma in casa non c'è nessuno che può fargli fare una passeggiata, tipo fratelli, sorelle, no? No. Aggiungo preso. Stavo pensando, bell'ambientino lì, quella volta che ti avevo portato quell'antenna, Luca. Siccome ho avuto difficoltà a trovare la porta di casa, no? Cioè, non ero sicuro che fosse quella. C'erano dei ragazzini al piano di sopra lì, no? E ho chiesto, conoscete tale e tali? E loro, no. Capito? Abitavano lì, fascia di merda, guarda. E quando? Ti ricordi che ti avevo portato una mini boomerang? L'avevo lasciata, mi pare, forse era tuo fratello. Siccome non trovavo la porta di casa tua, avevo chiesto a dei ragazzini che erano presenti al piano di su. Una ragazzina, ho detto, qui conoscete Luca tale e tali? E loro, no, cagare. Capito, per non dare soddisfazione, per non dare... Dica se la fotte sempre lì, mi bustata l'antenna. È sempre lì. Quella devo piazzarla da un'altra parte e poi un'altra radio, capito? È sempre lì, Marco, tranquillo, già non me l'ho venduta. No, non per quello, no, ma io criticavo il fatto che quelli abitavano lì e facevano finta di non conoscerti, cioè, va, chissà che bel ambientino è lì. Per carità. Poi senza contare che a te negli anni ti avevano tagliato il cavo, roba ho spillato, avevo capito roba del genere nel corso degli anni fa, tipo, no? Tagliato, 58, io sono dagli come se niente fosse, anche questo che ho adesso, ma ci vuole un arnese più, insomma, più massiccio per tagliare questo. Sì, è così ho fatto io. Cosa ho fatto io, però i muratori ci hanno cesoie buone, cazzo, il giorno esco e l'ho tagliato, la bagassa loro, che... Ma per carità. Loro non sapevano manco cosa fosse, cioè, che vedi un cavo grosso, nero, poteva essere anche un cavo di tensione, cosa ne gioco? Vabbè, e poi c'è il ponteggio qua, non se ne andare più dai noghi, cioè, non se ne vanno più da qua. È da Natale che non vengono, almeno sono venuti a gennaio a fare un pochino di intonaco del terrazzino, poi scomparsi. Villa, aspetta, oh. Luca, è arrivata mia zia, dai. Ti saluto, rinnovo gli auguri, ci sentiamo, Lu, buon tutto. Ciao, altrettanto Marco, ciao. Indovina che faremo stasera, dopo cena il lume di una candela. Brigido! Brigida! Brigido! Beh, la carina, una Pasqua, passata da lungo. Tu, e dove vuoi che vada? Io sono rientrato adesso, ero da mia zia a Canica, in Campania. Ho fatto un po' quella lucida, ho fatto. E siamo stati bene, dai, un po' in compagnia. Sì, anche io ero qua, io avevo gente lo stesso. Alleluia. Cazzo, oggi ha fatto caldo, eh. Oggi veramente ha fatto caldo, non c'è neanche un filo d'aria. Campa. Simile. Rimane quel Rix che sto facendo una cosa a Manuel un attimo. Ehi, tranquillo, tanto lavorando, mi posso la luce, tanto lascio accesa anche io. Ok, anda bene Meda. Per cui ho usato io come tesoro, guarda. Fatalino! Beh, fiorelli! Noia! Passata ad embriaghira! Io sono sempre ubriaco, cazzo! Non passa mai sano io! Insomma, si è mangiato vicino, dai! Sì, grazie, magari vicina. Oh, yeah. Anche vicina, eh. Fine, a me mi ha mandato giù la fotografia del barbecue, da voi. Vabbè, a te ti posso vedere, a voi non ti posso vedere se ti mangio. Vai, ti stanno mandando, mi sono cazzo un po' gomagna chi. Sì, sì. Quindi mi braccia mi dai noghi. Allora. E vino? Oh yeah. Lo citto l'hai fatto Zulu. Ma c'è lui, non ci ho capito. A rovino l'hai fatto lo citto Zulu. A rovino il cazzo mi dava pure la boccata. E allora, cazzo difettose sono. Ultimamente queste bottiglie di vino che tirano sono difettose. Allora, Belgini troppo, troppo impressa a Belgini, da poi si fate subito a zitto. Eh no, e come ti arriva a casa la vuole più. Non vado un tempo a farsi a zitto. Niente, ho le tabetti. Un bel di propagazione, c'è. Un bel di propagazione. Cazzo, oggi l'ha fatto un gas, guarda. Oggi sì, oggi una bella, una bellissima giornata, neanche un filo d'aria c'era. Bella giornata, è raro. Beh, si sta già annuvolando un po'. Ma domani c'è bello. Domani non mi c'è Luca. Domani sono in casa, tranquillo, sereno. Tante le cazzo avanti. A consumare benzina, andiamo a Patamona, cosa va a Patamona, fa ovvio. Scampagnata, vi vuoi, boh. Si bene, avete Brianghiera, Maialetto, Agnello, Cordula, Gigione, e la buona per da sorraggata. Sono stanco lui di mangiare il cane, ci credi, se cos'è il cazzo di analisi come mangia di gare, basta cazzo, basta, basta fare, basta, se un cazzo di mangia a carri. E poi quando la mangi due o tre giorni di seguito ti ne farasi, vabbè, l'agnello non è una cosa che si mangia tutti i giorni, si mangia nelle occasioni così. Io oggi l'ho mangiato in umido con le olive e domani l'altra metà la faccio a girarrosto. Come piace a me, io la faccio sinceramente più buona in umido con le olive, perché l'ho fatta a rosso oggi, ma l'agnello rimane troppo asciutto al rosso, non è la sua morte a farla a rosso, e farla in umido sì, con patate è buonissimo. Bisogna saper lavare, ma non è, c'è la sa troppo asciutta, bisogna saper lavare. Domani la posso vedere se è asciutta. Bisogna bagnarla anche, non è che la buona così sopra la graviglia, io la posso girare arrosto, non sopra la graviglia. Sì, è una cosa bagnata, rimane sempre asciutta lui, rimane anche se la bagni con l'olio, li metti le cose come Dio comanda, rimane sempre asciutta. L'agnello è solo e buona mangiarlo con le olive e basta. Arrosto non mi piace, non mi piace, non mi piace. Vabbè che non hai. Vabbè Natali. Ui. Cosa dici tu Natali? Ti piace arrosto o il patate e le olive? Meglio in umido l'agnello. Secondo è mezz'ora che aspetto. Capito? Discordo io non ne avevo carne. Ha giumagnato maialenzana e la parmigiana. Da voi ha giumagnato una mandata di gamberoni, bravio, di chi ti vede amprusi. E poi c'avevo quelle fetticine, ma sono di un burro al ragù. Buonissima, buonissima. Vabbè dai, io mi stacco, mi faccio la doccia. Se ci siete ancora ci risentiamo. Vai Lu. Sì, vai là, vai, vai. E si lava così con tutto il fumo che ha fatto a pranzo. Dei fumi, dell'alcol alcolizzato. Ci intendi Edu. Cazzo lo sai Emanuele, non bizzi assai. Poco. Maria, infatti racconta quando parlava in campagna da me. Cazzo. Nonna fazia rubino, faziamo il rubino, no? Mettevamo nelle damigiane, nonna lo chiudeva con le foglie, sai, quando deve fermentare, con le foglie dell'uva stesso, sì, dopo passavamo Emanuele e l'altra amica, cazzo, ne vogliamo mettere 3 vini e 2 puri a mezzo con le 3 d'Eva. Roba di sussa ricordia di Aghizzovini. Perché poi dentro casa avevamo, c'è il forno, no? Il forno a legna, sicché facevamo pizza, fainè, tutte cose, scatenato gas e in più davamo le damigiane, oh, il nonna, che andava a cubiardo. E un po' curiosi, mi sarà apparuto che suo vino. Se quanti usa birra, che farà panetti, no? Per controllare il vino, se era da travasare, se era da imbottigliare. E lui ha le risate, cazzo. Io dico quando l'ha assaggiato, le fa un po' curiosino, il suo vino. Quando si è abbizzata, sì, peccato, perché poi mischiavi acqua con l'altro vino, capito? Per far vedere che la cosa era sempre piena. E invece così lo stavi rovinando. Vabbè, tempi che furono. Babbo si cucavami in un letto matrimoniale in sei. Oh, per carità. Avevi voluto vedere, eccolo. Però stava bene. Tutto. Anche d'inverno andavamo, con la scusa che il forno era dentro casa, ci parliamo di tutto. E io al griglia è una comodità, io avevo un forno così, dentro casa. In cucina, era in cucina il forno, c'era la cucina sia a gas normale, no? Con i pensili, la cucina era arredata, in più c'era il forno a gas, perché, ma a legna, perché appunto le donne all'epoca facevano, nonna faceva i tondi, le focacce, la campagna era singoli, i tondi, le focacce, capito? Lui a banare di si dondi. Sì, Rocco, perché è tutta un'altra cosa, E forse dai chi mi è piaciuto con la banattesi, infatti dopo ho giocato la banattesi da Marrosi, da Sorso. Invece di fare tondi, però io facevo nel reparto spianate. Ma eravamo attaccati, ci divideva una porta, perché dal reparto panini, dai. Cazzo, ma come ti bugavano le focacce, o il pane all'uva, o il pane con cipolla, i tondi, come ti siamo chi sogna mangiare, perché di mangiare i pienati te ne era parato pensamente rurati a mangiare i pienati. Già sono buone, spianate calde e calde, appena uscite dal forno, con la mortadella, la muslisuia, ma quando tagli un tondo, o una focaccia, un'altra musica. Rodondo è un'altra musica, sì. Grazie, è poco mi piace a me. Mezzo rosso! Sì, zia Mastro Calvino, il capo fornaio, poverino morto. Se mi ha tu che devo mangiare a zio, dammi che è contato, perché quel pane lì era contato praticamente, sia all'uva, pane speciale così, erano contate, no? Non è che mi facciano a quintare come i banini e gli altri pani, no? Sì. Non ridurravano mai i conti, così era. Non ridurravai, no? È troppo buono. Però tu mi vuoi buoni qualsiasi bani, lo don da me, è troppo, mi piace il gruppo. Di su, in Senna, rinnovate, nel caso. Questo qui si usa ne va via. Ma se ne vuoi, io ne ho, perché me lo portano da un panificio, capito? Se ne vuoi, tanto io pane non ne sto mangiando. Perché con questo fatto del quello che mi è successo lo sento tipo metallico, un sapore metallico, sì che ho abbandonato purtroppo. Riesco a mangiare qualche pezzettino di spinata, ma poca anche. E sì che mi portano tondi, panini a go-go. Andate, no, io burro non ne so come niente, bani. Oggi manco un pezzo non ha mangiato, la verità è. E che quando lo pigliavo mi piaceva isso a me rubati, tagliato a fette, mamma mia. Lo vendono già anche a fette, pronto da mangiare, sì. Purtroppo, io prima la garri, guai, senza bani non vi riuscivo a mangiarla, ma mi sono abituato, purtroppo, se la voglio mangiare devo fare così. Fai fuzza, con la malattia va bene, ma non venuta di là con un bani, tutta la glicemia. A parte la glicemia nata lì, da quello che ho avuto, capito, lo sento metallico, mica è brutto, come ti devi fare la ruggina, che si mangia di ruggina. E il pane mi dà quel sapore lì, purtroppo. Il pane e tante altre cose, ha alterato il gusto, capito? Ti ho mandato un annuncio, l'hai visto? Che bellino? Già l'ho visto, già. Sta tenendo un buon prezzo ancora, eh. Oh, io l'ho giù regalato, eh. Io veramente, senti, voi canti milanito, cazzo l'hai regalato, curacato, la doppia in ballo, nuovo, mai usato in pratica. Ehi, vabbè. Così che. Nuovo. Arrivo di chisso, io sono un po' più parato, si vedi. Però. Io lo so. No, ma io la cosa mi prendo giù. Mi hanno disgustato, mi hanno. Capito? Mi prendo tutto e boh. Non ne compare giù più i baracchini, basta. Beh, diciamo perché ho scelto Giorgia, perché mi hanno proprio per interagire con i veicoli, no? Cazzo, non so come più manco né accutenti né nuda. Mi è passata proprio la gana di Ruduto. Ehi, verani un tico, si vede, cazzo, si è passato Guido, cioè io non lo so com'è. Se tu eri pronto, eri sempre, rispondevi bene, sabbi tutto e tutto canto, cazzo, hanno promosso all'altro, che magari ne sappiano manco una metà di te. E infatti no, non ci tento neanche più, poi adesso c'è da andare a Cagliari, quindi se si rabbiglia un'isola abbassata così, già non posso camminare, figurati, no, basta, fini. Ah, di nuovo a Cagliari, allora. E infatti, di nuovo a Cagliari dice che non ce n'è più Covid, di lui dice niente, però di nuovo è più. Abbiamo lavorato. Ma infatti, visto che è così, dovrebbero farle online, boh. Online, ognuno si riscalza a casa sua, si fa il corso che vuole e si presenta all'esame, si va già a casa sua, come invece di a farle andare a Cagliari, dall'altra parte della Sardegna, bah. Ci sono le spese per sostenere l'esame, le spese della benzina per andare lì, la bu in chimica anduici, non la paga di magnatica che cosa? Sono spese, sono, poi te ne devi tornare. L'ultima volta che sono andato, cazzo, come ci siamo arrivati a Cagliari, proprio alle porte di Cagliari, boom, ci sei passato dalla stupefacente, diciamo, no? Perché non la cinghia dell'alternatore, meno male che non era collegata alla pompa dell'acqua, se no gli hanno dato midurrati domani. Ha citato un personaggio, sì. Mi siamo midurrati senza cinghia dell'alternatore. Io e Franco, l'amico la macchina di Franco. Capita. E poi magari ti grebbano e devi fare tutti i 6 km di cuccia di un bulo. Invece sei a casa, e qui un paio di bugni e sei a posto. Non lo so, diranno più il computer da Ruacone, non lo so. E invece, in Chivi, corrudi a futigado. Ma io avevo sentito addirittura che li stavano organizzando a Roma direttamente, a Chinobi non ve la benisciuno, boh. Ma cosa vuoi che ti dica? Di Giorgia. Che vuoi che ti dica? Io, durante da 30 anni. No, finisci. Infatti non so neanche se entrare in 27 più, boh. Mi ha disgustato tutto, mi la verità. Devo dirlo io. Sì, vabbè, ritentaci se lo fanno qua o online, se no. Cosa vi dica? Beh. E ci sono 50 domande, sono da fare lì. Vai, no. E poi devi fare a Cagliari, hanno cambiato la legge, capito? Online non ne guardi più. E poi problema tuo è anche la posizione, non magari cazzo del virai, ti viene bucana di buoni antenni o direttivi o chi tu all'asso e non puoi fare nuda di nuda chi. E sicché ti rimani con il tuo coso in busciacca e cosa puoi fare? Noi che puoi fare più di tanto. Chi sono un casino, un bulo. E infatti io attività ben poca ne posso fare, quindi io la volevo solo, la faccio per un coso personale, una soddisfazione personale, basta, ma non è che puoi fare attività senza poter piazzare antenne, no? Oh, quindi, avanti, mi vendo tutto e si rabbia come ti posso amare. Facciamo tutto in diretta proprio così, grazie. Non ti vendi nulla, non sa fare, che se l'ha abbassato un po' duio, pure Natale, cosa fai? Ah, Marco, quella che cosa? Ah, ma che chi non ti domandi, no, che non ti domandano nulla. No, oh, lo sai cos'è? Non sto neanche ascoltando, ho perso tutto, quindi non mi interessa più, capì? Il cuore, ti permette. Mi troverò qualche altro hobby da fare. E poi non c'è più nessuno. Prima verranno tutti quanti a canale, vieni, splatter a nastro, se no ti vuoi una radio come ti si devi, non fa di nulla. Guarda, era così. Ma una scusa è perché non c'è nessuno, l'altra scusa è perché se entro io non entra l'altro, se entra quello non entra l'altro, sicché i ribassoni sono sempre chissi. Ho saputo anche da poco che si sono litigati qualcuno, e sì che si entra di uno non entra di l'altro, oppure si possono riganare. Oh, per carità, cazzo, per carità, purtroppo siamo esseri umani, e Natalia, cosa vuoi fare? Ehi, lo so, tu chiedi un favore a un amico e non te ne fanno, cazzo. Insomma, ci sono gelosie, questo, quell'altro, ma vaffanguarda. Invece essere tutti amici, organizza spuntini, ghigli, invece cosa organizzano? No, bisogna una banda di muti. Vedi, infatti ci sarebbe voluto tipo anche un circolo. Appunto così, con magari delle radio vintage appese, messe lì nelle mensole, parlare del più e del meno, cioè trovarsi lì la sera o fine settimana e parlare del più e del meno, fare una arrostita, fare una spaghettata, però non puoi fare nulla, che vi so sempre che critigheggia, che è meglio uno dell'altro, chi ne ha di più dell'altro, chi per carità, se no avrei lasciato freddo, ma siamo i nuovi disastrati, siamo così noi. E già lo so, prima siamo in macchina, cazzo, ci intendiamo via radio, ci incontravamo, andavamo a pigliarsi un caffè in pari, e va, nuda, non si può organizzare niente, ma vai, poi mi adesso so da un ipidale all'altro, mi sente anche il suo gioco. Cazzo, vengo lì. Sto qui. No, ma c'è quattro. Vai a vedere. Ma io vedo, se tu guardi su Facebook, è pieno di associazioni, fanno vedere arrostendo, fanno vedere le operazioni radio e tante cose, ma non c'è tutta questa chicagirusia, chi fa i noghi, tu guardi, è pieno di associazioni dove tutti vanno d'accordo, dove tutti poi si parlano anche in radio, io ascolto io in 40 metri, li vedi tutti i giorni parlando del più del meno. Oh, io non so, la cosa è così, la cosa. E poi qua non puoi fare niente, siamo due gorri di grabba, siamo la gente non si va a tirare a fare i suoi, non lo sai com'è. E allora, come fai tu a aprire un circolo per dire, chiamarlo CB o la 27 o Visuchi Tibiasi? Tanto non vi viene nessuno. La cosa, si viene uno, c'è parato, si vede, non vi vengo io. È tutta chi c'ha ciumacchini, boh. Infatti, tanti soldi. Un chicchino, sì, dieci cose, mai, no. Non ci siamo buoni qua, no. Diciamo così, lontano dalle cinture. Poi si vede a buoni cinque franchi, tutti si respirano. E soprattutto, e allora? Manuele, ci sei? Ehi, a velo! Salve, Emanuele, cazzo, si è attacca a bocca a pompa con il rubino, Natalì, boh, è arruinato il circo, l'ho messo. Ti immagini che abbrigi, no? Faccio più il fisico di una volta, Natalì, cazzo. Basta che ti arrivava una senna, da te, ero più contento. Cos'è? E basta che ti arrivava una senna, lì. Per carità. Che sai se devo? E a chi su Brigido mi hanno a quel di rubino, cazzo, si è dicato che non ha due, hai troncato se poi fa. Cazzo, anche immaginare, lei va a dire buoni anche con i buddi, allora se i buddi va via. un po' curisè vicino a Chissovino. Sì. Per carità. Ma poi c'era la Angelo, te lo ricordi Angelo? Ma come si chiamava Manuele a baracchino? Ah, Cerchione. Ehi, Angelo Cerchione lì resa, diciamo fatto la lì. L'ho visto l'altro giorno allo spaccio della carne. Cazzo, mira, vigiorelli. Cazzo, ma che sei, Manuele? Su Maria come sei diventato, mi fai? Ehi, sono passati anni da giudito. Ti conoscito pure io, Angelo Cerchione. Che tempo che ha fatto, se tu rendi da riguivi, oh, dove era guidare, no, oh, Angelo, se ne farà vada la macchina, cazzo, ma che è morto. E qua. Altri tempi, altri divertimenti, ma cosa che si passava, lui. E la viene pure dei giovani, 18enni di oggi, che so che avevamo fatto noi, vai. Cazzo, no, non fanno in inventiva, non fanno in nulla. Tu a questi di adesso gli auguro di divertirsi la metà di quello che mi sono divertito io. Sì, ma forse sarà la tecnologia Natale, beh, ma non vera nulla. Che il gioco te lo inventavi anche, va, ve tutto, sicché non sanno come ti devi chissà. Prova di lì, a me si rivede organizzando i seminati o che si gozi in campagna, non sappiamo cosa vuol dire. Ehi, Pucci, che schifo lo zimino. Pucci, Va, non si fa di più nulla. Vabbè, con i controlli che bisogna, va, accendi una un coso e ti arricchiai subito. Oh, yeah, già era così prima. Ma se vuoi fare le cose, di carpenteria lo facciamo, la piccola, da fedevello. Non potresti mandare a Pozzo San Nicola, ma no, è a Fiume Santo, veramente. Cazzo, Natale avevamo comprato, avevamo le ali di pollo, a sé come ti avevamo goti, con lo filo dell'acceleratore a tipo spiedo. Dì la paura, tu, cazzo. Lì la Gianni Doppio Ru, regimina di... che organizzavo in campagna io. Se mangiare la bella, cazzo, ma lo sai cazzo faccia, lui, cazzo l'attacca dai con cazzo il computer, ma... prima la tendina pigliava e andava a sbacchi a mare, lui ha, imbriaghi da ridi, non vanno manco di dinà, oggi, ma di vicissi, su buro, beh. Non vanno manco di dinà, andiamo a travagliare come avevamo fatto noi, io a 16 anni andavo a travagliare. Io ero andando a cura ancora, fasi scendere da un forro e andando a cura, per pigliare la terza media, che se no non mi potrei assicurare. E me l'ha giù fatta, capito? Ogni altro non mi dà cura, però via. Io ero amante di cosa? Io ero, mi ricordo che andavo a scuola e lavoravo allo stesso tempo. Mi bisognava i 4 di mangiare. Ma io entravo alle 10, entravamo alle 10 noi, e alle 6, 6 e mezzo mi ero andando per andare a cura da buio. Però guarda, non è stato facile, capito? Non è stato facile. E via, insomma. Hai fatto riuscissimo per arrivare a trovare. Io dico però che di nana ne più di cantina via Minuia va. Per questo è il mio modo di pensare. Io non si giovane da va, solo che non si sanno di visti. Questo è un paese di bravissimi. Tanto è più merda, bobo. Chi sono questi? E poi la sua è la di Ollo. Cosa? La solo io. Sì, noi tre siamo. E la piccolina è dalla madre, oggi. Mamma come? Figlia. Beh, le feste sì. Poi adesso non so, venerdì credo che venga. Cazzo, io gli ho fatto un caldo veramente, oggi cazzo curi a lungaggio, verso le 4 però ne stava già a cambiare la dieta. Questa stagione non si capisce più niente, che prima al momento a Pasqua era meglio a fendere un bagno, boh, a Maria, va, boh, non ce n'è più no estate. A Pasquetta per il coro si usciva a Lubani, Maria, cazzo di sciame chimi, cazzo un milione di vino bianco da 10 litri e mai nelle rizze nella tarocca. Sì, è bello così. Deve avere la fortuna appunto che è il tempo, perché quante volte è successo che organizzeggi e tipo Ferragosto e da Buoni farà l'aria. Sì, ma non c'è più il tempo come faccio, non ci sono le stagioni come una volta. Ma si compare il Buddha. No, non c'è più l'estate. Vedi che è sempre maestrale, sempre cazzo, uno arriva a Venari, non vede l'ora andarsi a mare il sabato e la domenica, e da Venari comincia a girare, pare i TBC. Io l'anno scorso qua ho fatto un tuffo così veloce, ma perché? Perché te l'ho detto, siamo andata a casa di mia sorella che dovevano pulire. Mia sorella doveva pulire la casa, doveva venire da Roma. E cazzo siamo andati gli anni a mare a Pia con la borsa a figo, con la villa a letto. Cazzo era venuta a Roma e aveva di villa, non mi dà moglie. Ah no? Vai a Talì! E rimani cazzo, ma te sì, ha detto che faccia tempo male, ma è da di che prendi. Grazie! Bella giornata, bella veramente. Ieri era un po' nuvoloso, ieri era un po' così. Ma le previsioni hanno detto che ne parava l'aria. E invece mi ha mai dato la riga a fatto. Ma se non le sale manco vai. Però così avete domani, va a attaccare un giro arrosto. Capita. No. C'è qualche nuvola adesso, però non sembra niente di grave. Ma comunque già si sta bene. No, è nuvola così, ma no. Domani mi sono bello lo stesso, come oggi. Meglio. Domani, come te oggi, solo che domani non mi muovo a lungo. Come cazzo andi? E di anni non vedo nulla. Vai pure, va dottora, va perché d'ora, lo sai, non vedo nulla. Vai alla lira e non vedo da una testa. No, guarda, ieri, avanti ieri l'ho fatto vedere in televisione, un momento a Canarira, qui 14 forse, un momento. E turismo alghero, passeggenti. No, già ce n'è di gente. Non puoi slanciati a Bimano, e gli sono casino. Se vai lì ti invitano a bere in un bar e a mangiare a casa di amici. Non puoi andare così, da voi sapendo che devi rientrare, qualcosa, c'è un posto di blocco. Qua oggi è un casino anche con quello. A parte di traccia fai anche bevendo un bicchiere di vino ti segna già l'alcol. E Paola Dazza di vino da Gazza, ma io infatti per quello non mi piace andare fuori a bere. E conto sì, devi rimanere vivi la notte, tutta la sera e la notte, allora, un altro discorso, e parte la mattina. Ma se devi viaggiare, sei vivi la sera, tutta la sera, vive e offende, da voi cazzo dici, con tutti i mostri di blocco che si offendava, e pure anche adesso, poco fa scendendo da via Prati c'è la mostra di blocco. Con la scusa oggi lo stesso la gente festeggia, la gente va a casa di amici, vanno in campagna soprattutto quando andi, chi sei invitato in campagna da amici, e cosa fai? Fendi la russo, no, abbattendi la garri, non ti rovi il vino, la birra, però devi comprendere pure che da voi devi durare a casa, e il casino è chisso. Devi smettere di bere a una certa ora perché poi un po' ti devi riprendere per ritornare a casa. Non fa. Devi prendere per forza. O pigli la chimica, o c'è il bulma che devi farsene di viaggi, che ti prende e ti porta a casa. Se no stare tutto il giorno lì, divertendosi, bevendo, mangiando, e la bizza si dorme chi. L'unica chissà. Ti sei passato una bella giornata e il giorno dopo la mattina si ritorna a casa, freschi come una rosa. Sì, è bella la terra già in casa. C'era gente qua, avremmo mangiato vino e va ripigliamo chi ci avremmo da casa. Io qua ho mangiato, sinceramente ho mangiato una pancetta, un pezzo di sacchezzone e pollo, ali di pollo ho messo a fare, e basta, e salsiccione di quello grosso, col finocchietto. Ma sta cosa buona? Solo che cazzo, quando si stufa da tarì, quando si stufa di mangiare carne, carne, carne, cazzo di rimbassa la gara, oh, basta lo saccato, basta, basta, basta, cazzo della giovinza lunga puoi scagliarli. E infatti io non ho giocato malissimo, sempre bochito, agnone, bochito, agnone, io... Vai Luca. No, io infatti a pranzo ho mangiato due bizzareddi di agnello in umido, ma proprio due contatti, e la pasta al forno. E domani replica, arrosto e pasta al forno. E vedi, pasta al forno, vedi, non abbiamo avuto voglia di mangiare pasta al forno, vedi, sono da tanto senza mangiare. E anche quella devi fare una volta ogni tanto, ma perché sennò non ti sciuffa il saburo. E vedi, a pasta al forno gioco da me, minimo gioco più di un anno, figurati, vedi, pasta al forno ogni tanto. Ci vuole, ma cazzo, non è rimanere gare, gare, gare, il lavoro. Ma non è per uso solo massaggio. No, basta, cazzo, adesso devo smettere di mangiare un po'. Cazzo, mi esci due dollari a lungo di, come ti dicono, quello di Enrico in Natale, come ti si chiama? La malattia di Enrico, la gotta. No, la chissà, ma scende, cazzo, mi faccio mai un po' di dollari. Per carità, sono stato una settimana mille antibiotici quando mi è venuta, ma non riuscivo mai a pulire un bel in terra. E chi sulla via Ruggiome Granutlu? Per travagliare dal comune, chi sulla via la cotta, cazzo, non poteva camminare. E chi c'era la gara? Non riuscivo neanche a camminare, vai io. A te non ti mai aiuto la cotta. No, sinceramente no, ma i dopo garri non è, non è che ne mangio io. Queste cose così, festività così, oppure quando c'è bel tempo arrosto. Ehi, dai, vediamo un po', rimango in ascolto se voglio entrare qualcuno. Vabbè dai, signori, è venuta gente, vi saluto, ci sentiamo alle prossime. Al limite domani va la Platamona, se vuoi venire Manuel ti prendiamo un caffè in fare a Luca. Ehi dai, vediamo, vediamo. Rimango anche in quell'Ixi che mi faccio un po' di cose qua e poi già rimango senza la radio accesa, vai tu. Ehi, già sono all'ascolto anch'io. Ehi, magari, devo trattenere un fuoco e tutto quanto Natale, se no volentieri. Anche oltre il caffè pure, capito, senza problemi. E lupo, che è che ora lo devo accendere, non è che lo devo accendere, chizzo chizzo, no? Soprattutto per le... No, verso le 10 così. Sai, giro arrosto, devi andare in uleno, piano piano. Ehi, lo so, ma io non devo... Farò chizzo, vi sarà Bruno, vi sarà... Ma che tu farà sempre? Magari ha giubito la che voce a Bruno, via il mar della torretta. E lì va, Bruno va lì. No. Ma dove va? Dove c'è la prima Natale? Ah, il bar della torretta. E lì è che va della torretta? Per dire il bar della torretta, Manuele. Ma in disse di Sassari o di Indì? Ma quello che rimane dove c'è per la Porrottone? Sì, l'ultimo, esatto. Sì, che passi dalla rotonda. Quello che l'hanno fatto bella, te lo ricordi da Natale, Natale? Sì, lì... Lì scende Bruno, e scendo anche io. Certo. Non la mangiano, guarda, non so che andare da Luca, non so che andare da Luca. E allora per cambiato un po' l'aria, c'è un po' che ha sempre in casa non andava. Infatti, lo dico pure a Franco, si farà, sul telefoneggio ve lo dico, così ci vediamo il caffè in pari. A Franco l'ho incrociato quando stavo salendo a casa. Infatti a Lucia era da Columbano, mi deve essere sigaretti. E a chi Franco va la campagna in Chivi, a bancare. A bancare, a carica, vicino al prato rimane. quelli di Accanica, là. Virà anch'ivi, virà Lucia la campagna. E faranno i tempi anch'ivi. Già non so dove c'era la campana, avevo mangiato un buco lì. Giura. Vuoi così farà? Tanto Bruno vi sarà sicuramente. Buona Pasqua! Sì, avanti! Ciao Natalino, ciao anche a Manuele, dai! Ho detto buona Pasqua! Grazie altrettanto! Io stavo chiudendo là che è venuta gente, ci sentiamo alle prossime, là! Salutoni a tutti! Mia, ciao Natali, ci sentiamo, dai! Buona serata! Manuele, ci sei! Grazie, grazie, grazie. Allora, c'è un po' sulla mostra di lì, eh? Si può muovere, la trovo anche lì, la promuovo.